senza scherzi tipo masturbo già te lembran tipo corta ta pensa cos'è che fa se pa buttata nasci duro arn ta pensa na bo talen pa che ste puno passa mi cubo era tempo fake. I'm sorry for the pain that I caused you. It was something that I